Mi dispiace, io ci ho provato, ma credo a questo punto sia giusto lasciare il gruppo. Ti eri promesso non mi avranno mai più. Mi sono dato, ci ho creduto e voi mi avete massacrato. E questo cuore è diventato una poltiglia da dare in pasto a quattro amici, alla famiglia. Adesso basta, la lezione è stata dura. L'ho imparata, l'ho affrontata anche se avevo un po' paura dei cazzotti che sa darti dritto in faccia la vita. Cappa, ho getto la spugna, questa volta è finita. Ma poi è arrivato il suo sguardo. E per tornare a illuderti ti è bastato il suo sguardo. Stato sfortunato, forse stavolta potrei usare tutto quello che ho imparato per schivare i colpi in faccia della vita, che la lezione è stata dura e l'ho capita, che in fondo poi se no che cosa campo a fare, se non ho più neanche il coraggio di rischiare. Sono convinto questa volta potrei essere davvero più maturo, più fedele, più sincero. Cretino che sei, adesso il cuore ti si spaccherà. Sei cascato di nuovo, ci sei cascato di nuovo. Cretino che sei, adesso il cuore ti si spaccherà. Ti hanno fregato di nuovo, ti hanno fregato di nuovo. Forse ha ragione lui.